Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. È la seconda parte di Eclettica in onda tutti i giorni della settimana sulle frequenze di Rock FM fra le 19 e le 20. Beh, questo è valido in settimane normali, non sicuramente in settimane di Natale o di ultimo dell'anno in cui le trasmissioni sono meno rispetto al solito. Di questa trasmissione esiste anche la possibilità di avere la playlist ricevendola direttamente nella vostra casella di posta nel caso vi iscriviate alla lista nera. Per farlo è facilissimo, basta mandare un mail a giulio@radiorockfm.com ed esiste anche il podcasting di cui trovate i dettagli su myspace.com/eclettica e su www.radiorockfm.com. La prima parte si era chiusa con un estratto dall'ultimo dei The Warlocks, Heavy Heavy Skull Lover, il titolo dell'album dal quale sono andato ad estrarre So Paranoid. E si è aperta invece con un artista newyorkese che sta attirando l'attenzione di molti fra voi, me ne rendo conto per quello che mi scrivete a giulio@radiorockfm.com. Sto parlando di Quinn Walker, appena ascoltato con Baby Neon. Si prosegue invece con una interessante novità che arriva dalla Nuova Zelanda, un disco che ha avuto una pubblicazione, perlomeno l'avrà anche nei prossimi mesi, estremamente ridotta, quindi disponibile solo d'importazione per chi è ancora interessato al supporto fisico. È uscito l'8 di ottobre nella loro terra natia in Nuova Zelanda per la Tardus, poi è uscito in novembre in Australia per un'altra etichetta e il 5 di febbraio uscirà negli Stati Uniti e in Canada per una terza ulteriore etichetta. Si chiamano Die Die Die, l'album ha per titolo Promises. Promises, e il pezzo è Sideways, Here We Come. We'll be right back. Dirk Alexon mise giù il libro e salì la corta rampa che portava al ponte di osservazione. Era ancora troppo presto per vedere la Terra, ma l'approssimarsi della fine del viaggio lo aveva reso irrequieto e incapace di concentrarsi. Si avvicinò agli stretti e ricurvi finestrini che si aprivano sul bordo di attacco della grande ala e guardò giù all'oceano informe. Non c'era assolutamente nulla da vedere. Da quell'altezza anche la più poderosa tempesta atlantica sarebbe stata invisibile. Osservò per un po' il grigiore uniforme sottostante, poi si avvicinò allo schermo radar a disposizione dei passeggeri. Questo era l'incipit di Preludio allo spazio di Arthur C. Clarke. What can I get you? The usual? No, Chester, I'm gonna need something a lot stronger than that tonight. Sarsaparilla. Whiskey, Chester. Whiskey? Emmett, are you sure you know what happened to you on the 4th of July? Whiskey. Okay, I ain't your papa. Just don't want to see you do the wrong thing. You can leave the bottle. There are certain things you must do to perceive his face in the stains on the wall. I didn't know what time it was at all. I didn't know what time it was at all. time it was at all. I didn't know what time it was at all. Foam hands, I'm not the kind to tell you what is true and what is told. Prima o poi doveva succedere. Il 30 giugno 1908 Mosca evitò la distruzione grazie ad uno scarto di 3 ore e 4.000 chilometri. Un margine decisamente irrisorio, secondo il metro dell'universo. Il 12 febbraio 1947 un'altra città sovietica se la cavò con un margine ancora più ristretto, quando la seconda grande meteorite del XX secolo esplose a meno di 400 km da Vladivostok, con una violenza senz'altro paragonabile a quella della bomba a uranio di recente invenzione. In quei giorni l'uomo era inerme di fronte a quegli sconvolgimenti cosmici che in tempi più remoti avevano sfregiato la faccia della Luna. Questo era l'incipit dell'incontro con Rama di Arthur C. Clarke. Thank you. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 9, volume numero 5, indice, Joycat, Red Worm's Farm, Seu Jorge, My Robot Friend, The Warlocks, Queen Walker, Die Die Die, Wug Riots, Destroyer, e per chiudere ci siamo ascoltati i giapponesi Tennis Coats. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.